Benvenuti a tutti quanti, siamo la Biblioteca Provinciale di Flavio Augusta, abbiamo colto questa occasione speciale di incontrare e di proporre al nostro pubblico Maria Sartori Piovani, che non vive a Bolzano, pur essendo bolzanina di origine, ma è un paese un po' più lontano, che è Lussemburgo. E so che è molto conosciuta a Bolzano, ha lasciato una grande amicizia e stima delle persone che l'hanno incontrata nel suo percorso, che è un percorso anche molto ricco, perché così ho avuto l'occasione di vedere anche il suo curriculum, conosce tantissime lingue, si è adoperata per farle conoscere, per escogitare dei metodi per facilitare l'apprendimento linguistico, e in questo caso, questa sera, sarà l'occasione di conoscere tre dei suoi volumi dedicati proprio all'apprendimento anche linguistico della lingua italiana. È stata anche insegnante di liceo classico, lì mi ha incuriosito molto perché in quell'anno lì c'ero anch'io, infatti quando l'ho conosciuta la prima volta mi sembrava una faccia nota, magari è stata anche una sorpresa della mia classe, questo poi lo scopriremo dopo. Comunque, ecco, a volte la vita degli agganci non sperati. Benissimo, come abbiamo pensato di organizzare questa serata? In realtà Maria Sartori Piovani è assolutamente in grado di gestirsi da sole, non vorrei entrare nel merito delle sue competenze, per cui le lascerò poi la parola. Mi premeva però introdurla perché siamo molto contenti di averla qui con noi in un contesto dove c'è anche un centro multilingue, oltre che una biblioteca provinciale, e che per noi lo scopo fondamentale attraverso questi incontri è quello poi di promuovere un ritorno, di tornare qui, di vedere anche quello che noi offriamo e quelli che possono essere tutti i servizi dedicati al cittadino da parte di queste strutture. La Biblioteca Provinciale ha anche organizzato, come ogni anno, anche quest'anno, un premio Flavio Augusta. Vi chiedo, se per caso conoscete qualcuno che si sta laureando, di segnalarlo, perché poi verrà eventualmente premiata la sua tesi di laurea. Il bando è sul nostro sito, quindi, oppure ci si può rivolgere direttamente alla biblioteca per ulteriori informazioni. È un modo per incentivare lo studio, la conoscenza, la ricerca, e dare un po' di incoraggiamento anche alle giovani e ai giovani studenti. Mi fermo qua, vi lascio la parola, ringrazio tutti voi, vi invito anche a tornare così a conoscerci e a frequentare questo centro. Grazie. Al numero 8, 8 interno 13, 4 piano. Anche la signora senza ascensore, proprio di fronte alla chiesa dei Cappuccini. Ho vissuto qui fino agli 11 anni e poi mi sono trasferita via Gallo dei Medici e ho fatto il mio percorso di studi, sono stata negli Stati Uniti. E dal 1993 vivo in Lussemburgo. Ringrazio il centro Trevi, la signora Trevisa, per avermi dato, per avermi invitata qui e dare la possibilità di parlare dei miei libri. Ecco, volevo anche dire che oltre alla via Cappuccini, qui c'è la via Marconi, e anche la via Marconi ha un certo significato per me, perché io da piccola andavo ancora quando andavo all'asilo e all'inizio delle scuole elementari, andavo presso una famiglia qui in via Marconi. E ricordo che c'era il treno per Merano che passava di là e io mi divertivo, mi piaceva andare sul divano che era contro la finestra e guardare dalla finestra il treno perverano che passava e fare sempre ciao con la manina. E in uno dei miei libri, nel secondo, troviamo allora i tre libri sono incentrati tutti e tre su un personaggio principale che si chiama Silvia Benarrivo e troviamo qui prima del trasferimento avevano abitato vicino a una ferrovia. Spesso Silvia si vedeva bambina che si arrampicava sul divano sotto la finestra e guardava fuori mentre il treno passava e lei faceva ciao con la manina e sentiva una gioia indescrivibile che sembrava venire dal profondo del cuore quando i passeggeri rispondevano al saluto. Qualche volta si sentiva veramente coraggiosa e mandava addirittura un bacino ed era tutta felice quando vedeva i passeggeri del treno rispondere ai suoi saluti. Questo per dirvi che sono libri che hanno anche degli accenni autobiografici e quello che mi piaceva quando leggevo i libri durante i corsi con i miei studenti e quando mi dicevano ah qui si vede che è proprio lei, qui si vede, qui è Marilla e io dopo di leggendo dicevo ah sì, qui sono proprio io. Sono tre libri che mi stanno molto a cuore. E che io chiamo doppi libri. Sono doppi libri che colmano una lacuna. Allora, perché doppi libri? Perché sono tre libri che formano una trilogia, con imperniati sempre sul personaggio principale, appunto Silvia Benarrivo. Sono tre romanzi e allo stesso tempo sono strumenti utili per il miglioramento della conoscenza della lingua italiana. Sono adatti a un pubblico che già conosce l'italiano, che già parla l'italiano. Sono libri di livello B2 e C1. Allora, i livelli linguistici sono A, B, C e ogni livello è suddiviso in A1, A2, B1, B2, C1, C2. I miei libri sono appunto per il livello B. Sono romanzi e sono anche strumenti per l'approfondimento della lingua. Perché? Perché hanno o la traduzione in francese e in tedesco delle parole e delle espressioni più difficili, oppure la spiegazione in italiano delle parole e delle espressioni più difficili, più tanti esercizi e anche tante note esplicative. E questo è per questo sono utili appunto specialmente nelle scuole. Io li vedrei molto bene nelle scuole in Alto Adige, nelle scuole medie superiori, dove secondo me, come dicevo, colmano una lacuna. Mi spiego. Ci sono libri, racconti brevi o romanzi brevi per un livello A e ci sono anche questo tipo di libri con esercizi o con traduzioni. Poi ci sono i grandi classici della letteratura con le traduzioni e forse anche con esercizi. Quello che manca proprio sono i libri per chi ha un livello medio di conoscenza linguistica e per chi desidera conoscere la lingua colloquiale, la lingua colloquiale di tutti i giorni. Io ho un grande rispetto per la letteratura, ma se noi studiamo la letteratura non impariamo proprio i modi di dire, le finezze della lingua della strada, per modo di dire. E in questi libri troviamo proprio la lingua colloquiale. Vediamo ora i libri uno per uno. Abbiamo il primo libro intitolato appunto Tutto cominciò con una telefonata, e questo libro è un po' diverso rispetto agli altri due. Perché? Perché ha gli esercizi alla fine di ogni capitolo, e perché le parole e le espressioni più difficili sono tradotte in tedesco e in francese. Perché anche in francese? Perché è stato pubblicato in Lussemburgo, e in Lussemburgo si parla, oltre al lussemburghese, anche francese e tedesco. Ed è nato prima di tutto come romanzo breve, ed era diciamo un libro nel cassetto. E i miei studenti dicevano: ma vorrei un libro da leggere, non troppo difficile, un piacevole da leggere. E allora ho pensato di trasformare questo libro in un romanzo didattico. Ed ecco che appunto ho aggiunto la traduzione. Vedete, ogni pagina del romanzo vero e proprio è scritto, è divisa a metà. Allora, questa metà c'è il testo, e poi qui in grassetto ho ripreso la parola che poi ho tradotto in tedesco e in francese. E qui alla fine di ogni capitolo, i capitoli sono 26, alla fine di ogni capitolo ci sono esercizi relativi al capitolo. Il primo esercizio è sempre un esercizio di comprensione del testo, il secondo esercizio è un esercizio di vocabolario, e il terzo capitolo, il terzo esercizio o quarto, quinto, sono esercizi di grammatica. Tutto cominciò con una telefonata, e sentiamo la telefonata. Pronto, ben arrivo, perché quel personaggio si chiama appunto Silvia Benarrivo. In questo libro ha 25 anni e sta studiando per prepararsi alla tesi di laurea, per laurearsi. Pronto, sei tu Silvia? Sono Nico. Ah, ciao Albione, che c'è di nuovo? Senti, c'è una cosa molto interessante che voglio proporti. Allora, ascolta bene. Franco, sai, Franco Simoni mi ha parlato di un inglese. Figuriamoci. Ascolta. È interessante. Dunque, questo inglese viene dal Belgio e vuole imparare l'italiano. Cioè, lo sa già. Franco mi ha detto che se la cava, però vuole parlarlo meglio. In Belgio prendeva lezioni al telefono e adesso cerca qualcuno che possa offrirgli lo stesso servizio. E da qui poi prende avvio tutta la storia e l'avventura di questa simpatica e curiosa Silvia. Allora, lei lo chiama Albione. Una domanda della comprensione del testo è: perché lo chiama Albione? Io nel testo poi lo spiego. C'è un motivo. Chi poi leggerà il libro lo saprà. Poi ecco, dicevo, i miei libri contengono proprio il linguaggio di tutti i giorni. Il linguaggio di tutti i giorni è fatto anche di modi di dire, e ce ne sono veramente molti. Per esempio, elenco. Pensò alle poesie che aveva dedicato a un suo vecchio moroso, che poi spiego anche che moroso ha due significati, ovvero fidanzato oppure chi non paga l'affitto. Aveva dedicato un vecchio moroso e a tutto il tempo che ci aveva perso. Ma cosa pensa? Acqua passata, Silvia, acqua passata. Ora qui scrivo che acqua passata è Vergangenheit, ma poi in un altro libro riprendo il modo di dire, lo completo, acqua passata non immagina più, e poi poi spiego anche il significato vero e proprio di questo modo di dire. Ma poi ci sono i personaggi, a me sono tutti molto simpatici, ci sono per esempio i signori Schick della Germania che vengono poi a trovare Silvia e la sua famiglia. E Silvia notò che rispetto a 11 anni prima erano entrambi ingrassati un po', e lui, il signor Schick, aveva anche perso parecchi capelli da quando era tornata in Italia. Lei non aveva più rivisti, erano passati vari anni, per il resto nel modo di fare, di comportarsi, erano gli stessi di allora. Poi naturalmente avevano gli stessi occhi azzurri e furbetti. Mi guardò meglio e pensò: anche se siete un po' cambiati, siete sempre gli stessi. E tu, Frau Schick, non hai ancora imparato a vestirti bene. Un altro passaggio che mi è piaciuto è quando lei va al bar e guarda. Si trova là e gli dette un acqua minerale, poi andò alla cassa a pagare e le cadde lo sguardo sulla grande quantità di caramelle, gomme americane, cioccolatini, biglietti della lotteria e varie cose che erano esposte. E questo è interessante per il pubblico lussemburghese, il pubblico diciamo non italiano, perché queste caramelle, tutte queste piccole cose che si trovano nei bar in Italia, all'estero non si trovano. Ecco, e questo anche potrebbe servire a immaginare un po' la vita italiana. Allora, vede tutte queste cose esposte e pensa: guarda, vedo via, è un'eternità che non ne busco una, erano le mie preferite quando eravamo in Germania, mi facevo sempre la scorta in Italia. C'erano solo quelle nere, adesso le fanno anche bianche, ma io sono per l'originale. Lei poi parla spesso con se stessa e si dà in seconda persona, infatti dice: e sai quando ho smesso con l'egoia? Mi viene da sorridere adesso a pensarci. Ho smesso con l'egoia quando è finita con Davide, l'egoia. Dopo di allora non sono più stata capace, quelle caramelle me lo facevano sempre tornare in mente. E poi dice: sono passati 4 anni, posso riprendere a mangiare l'egoia. E poi ecco, alla fine di ogni capitolo ci sono gli esercizi. Allora, questo libro ha 26 capitoli, perciò sono 80-90 esercizi. Ecco, per esempio, a proposito di modi di dire, qui dice anche allora, suo papà nota che aveva impiegato più tempo del solito nel bagno per truccarsi e pettinarsi, perché quella sera lei aveva un appuntamento. Allora il papà dice: qui l'acqua ci cova. E qui poi spiego la traduzione dell'espressione. La stessa espressione poi appare anche nel secondo libro, dove, come dicevo prima, spiego meglio questo modo di dire. Modo di dire che ha il titolo del mio 4° libro, un libretto uscito l'anno scorso in settembre presso la Langenscheidt di Monaco, che contiene 250 espressioni e modi di dire. Qui l'acqua ci cova. È divertente come libro. È divertente anche perché appunto tutti questi modi di dire mi fanno sorridere e sono tutti tradotti in tedesco, e poi c'è anche un esempio in modo di dire. Come finisce il primo libro? Andiamo a vedere. Ecco, allora Silvia si laurea e dopo la laurea vanno tutti al lago al ristorante, lei con la sua famiglia e amici. Ah, che giornata, 108, sono forte, sono grande, lei di nuovo che parla con se stessa. In fondo 108 è il voto migliore per me ed è meritato, 109 non lo vorrei proprio. Che fortuna quel 108, dovrò rivedere la mia opinione sui secchioni. E poi cosa mi ha detto la professoressa Monieri? Che la mia tesi è enciclopedica. Questo non la dimenticherò mai, mai più. È tutto troppo bello per essere vero, è incredibile. Ma cosa ha detto quella volta Stefano? Anche le cose incredibili possono essere vere, e sorrise. Fai la faccia così beatamente sorridente, Silvia. Hai qualche motivo particolare? Le chiese Paul. Sono contenta e basta, rispose lei e cominciò a mangiare la mousse al cioccolato. Voglio anche aggiungere che questo libro, come anche gli altri due, ha l'elenco alfabetico delle parole e delle espressioni tradotte o spiegate in italiano e la soluzione degli esercizi, che fa sempre piacere. Passiamo ora al secondo. E comincia la mousse al cioccolato. Sì, l'ho fatta, l'ho preparata stamattina e al telefono con sua mamma. Mi sono alzata alle 6 e adesso è già in frigo e mamma mi è venuta proprio bene, come le altre volte, anzi oggi meglio di quella volta che abbiamo mangiato al ristorante il giorno della mia laurea. L'avevo mangiata una porzione e mezza, ma non era super come la mia, vero mamma? Anche obiettivamente, vero? Vero, vero. Adesso però ti devo salutare, sento il bene che mi chiama, stanotte ho dormito tutta la notte, è in via di guarigione, finalmente. Bene, benissimo, dai un bacio da parte mia. E le dirò, questo è un super bacio da parte della tua mamma e tu dai un bacio a Elena da parte della sua super nonna. Ciao Silvia, sarà fatto, ciao mamma. E grazie ancora che tieni, Irene. A fila sei Maria. Ciao. Silvia le agganciò il telefono sorridendo. In passato la mamma non era così insistente. Che motivo c'era di telefonare solo per chiedermi se la mousse l'avevo preparata? Che sia l'età? No, le mamme non invecchiano. E così anche qui poi si dipana questa avventura, diciamo, di Silvia, mai dire mai. Allora, il secondo libro, il primo libro si dipana sulla primavera, inizia in marzo, finisce il 4 luglio quando lei si laurea. Il secondo libro è tutto sul 31 dicembre, perché il 31 dicembre succede qualcosa che mai avrebbe creduto possibile. E anche in questo libro però è un po' diverso dal primo. Allora qui abbiamo la prima parte che contiene il romanzo con la spiegazione in italiano delle parole e delle espressioni più difficili e nella seconda parte le note esplicative più esercizi di comprensione del testo, molto dettagliati, perché qui vado proprio ogni pagina, chiedo per ogni pagina ci sono domande sulla comprensione del testo, comprensione del testo, esercizi di vocabolario e di grammatica. Ecco, un altro, volevo dire alcuni esempi di vocabolario. Per esempio, c'è un capitoletto dedicato alle espressioni in lingua latina in italiano, e qui ne ho elencati 18. Solo qualche esempio: ad hoc, il busillis, oppure carpe diem. E negli esercizi, per esempio, scusami, mi sono espressa male, c'è stato un qui poco. Il segreto, il solito segreto di ogni donna qual è? Avere un invisibile factotum che tenga sempre la casa pulita in ordine. Oppure, Silvia pensa, quanto vorrei un vademecum della donna di classe. Secondo me Sofì ce l'ha in francese e Lucia lo ha in italiano. Sofì e Lucia sono due sue vicine di casa, ma entrambi lo tengo ben nascosto. In questo secondo libro poi descrivo anche i personaggi, i suoi vicini di casa. Per esempio c'è Antonio Tirarossi, un vecchietto con i capelli sempre ruffati all'Einstein, è molto sbadato, che dimentica spesso la chiave in casa. Allora la prima volta ha chiamato il fabbro e dopo ha dato la chiave a Silvia, se le la tiene. Ogni tanto Silvia torna a casa e trova il povero Antonio Tirarossi fuori dalla porta di casa che l'aspetta perché lei gli dia la chiave. E poi un altro personaggio che mi è piaciuto molto, adesso vediamo, è Mariuccia Invernizzi, che vi voglio leggere anche qui. Allora, Mariuccia Invernizzi è una signorina non più giovane, ma è piccolina, indossa un cappottino con il cappellino, ha un cannolino con la borsettina. E allora ho approfittato di tutte queste piccole cose della signorina Invernizzi per parlare poi delle trasformazioni dei sostantivi, e ci sono vari modi. Possiamo dire una parolina, una parolaccia, una parolona, e anche questo presenta difficoltà per i non italiani, e anche a questo ho dedicato tutto un capitolo. Allora vediamo un po' la signorina Invernizzi, lei continua. Allora, uscì di casa, decise Silvia Benarrigo, adesso decise di scendere a piedi e incontrò la signorina Invernizzi. Il grembiulino a fiorellini sembra proprio adatto al personaggio, pensò Silvia. Mi scusi, guarda che caso, sì, chiamalo caso. Mi scusi, non avete un uovo da prestarmi, volevo farmi la pasta alla carbonara e ho finito le uova. Silvia, buona come sempre, tornò su velocemente e andò a prendere l'uovo dal frigorifero. Proprio mentre stava per uscire squillò il telefono e poi però porta l'uovo alla signorina Invernizzi. Tra l'altro, perché è bianca e pallida? Oppure perché si chiama Invernizzi come formaggio, perché neanche paglia, anche lì ci sono sempre queste sottigliezze, chiamiamole sottigliezze, ma piccoli accorgimenti. Poi quando torna a casa decide di salire le scale a piedi e incontrò di nuovo la signorina Invernizzi. Le foglie di fico di Adamo ed Eva negli affreschi. Grazie di nuovo, stasera mi riporto, ma cosa vuole che sia solo un uovo? Ma la sera poi, e quella sera poi erano tutti stanchi, lei, il marito e i tre figli, perché avevano tutti avuto una giornata diciamo, movimentata e dunque andranno tutti a letto presto quella sera. Dopo un po', proprio in quel momento, suonavano la porta. Vedrai che qualcuno che si è sbagliato continua pure a raccontare, rispose Enrico. Mi erano già a letto. Ma non si era sbagliato nessuno perché sentirono bussare. Silvia si alzò di malavoglia. Speriamo che non sia il signor Antonio, pensò Antonio Tiraboschi, quello che dimentica le chiavi, eccetera. Aprì la porta. Oh, signorina Bernizzi, buonasera. Ma scusi, ma Luce Bernizzi, questa volta in un vestitino pesco, il colletto bianco, squadrò Silvia dalla testa ai piedi, perché era più che evidente che era appena uscita dal letto. Se non fosse stata allora a far capire alla signorina Bernizzi, ci avrebbe pensato il pigiama, tutto ricoperto di lefantini rosa, nelle più svariate posizioni. Sulla spalla sinistra c'erano gli unici due grigi, e saltellavano in una pozzanghera felici con la proboscide alzata. L'ho portato l'uomo, disse Maria Bernizzi, leggermente imbarazzata, fissando la spalla a sinistra di Silvia. Grazie, ma non doveva. Buonanotte, buonanotte, mi scusi ancora. Per una volta la famosa frase "non doveva disturbarsi" corrisponde quasi alla verità. Non sei antipatica, tutto sommato, ma sei petulante, petulante, sì. Ecco una parola che non conosco in inglese neppure in tedesco, petulante. Domani controllo nel dizionario, cioè nei dizionari. È una scena che insomma, mi diverte vedere questa Maria Bernizzi che capita quando tutti sono a letto solo per questo uomo. Ecco, allora, dicevo, questo secondo libro, qui abbiamo Silvia che ha 41 anni, ha tre figli, e descrivo questo 31 dicembre. Poi nella seconda parte del libro ci sono, come dicevo, molte domande sulla comprensione del testo e anche molte note esplicative. Per esempio, come dicevo la signora di Radio Sacra Famiglia prima, ogni occasione buona per dare indicazioni anche di storia. Faccio un esempio. Il signor Tiraboschi è anziano e dice: io sono, con orgoglio, dice, io sono coetaneo del Presidente della Repubblica e del Presidente della Repubblica precedente, cioè Giorgio Napolitano. Poi nel terzo libro appare di nuovo e dice: adesso non sono più coetaneo del Presidente, ma ho lo stesso qualcosa in comune col Presidente attuale, si tocca i capelli perché ha i capelli tutti bianchi come Mattarella. Allora, questo mi dà la possibilità di scrivere poi tutti i presidenti della Repubblica Italiana. Allora, perché dico questo? Perché questi libri sono molto completi, perché hanno anche molte indicazioni di cultura e di storia italiana. E ripeto, secondo me sono molto adatti alle scuole medie e superiori dell'Alto Adige. Per esempio, do anche spiego anche come le parole cambiano significato nel tempo. Primo esempio che mi viene in mente: compagno, fino a qualche anno fa significava anche compagno con un certo partito politico, e oggi invece ha preso il significato di convivente. Casino, fino a 30 anni fa, era una parolaccia perché significava casa di tolleranza, mentre oggi invece significa grande confusione e non è più parolaccia. E tutte queste cose sono contenute nei libri. Un altro aspetto che vi dico così breve, se io affitto una casa e non spiego bene, l'interlocutore non capisce se io ricevo i soldi dell'affitto o se pago l'affitto. Tirare, posso tirare il cassetto verso di me o tirare la palla verso qualcuno, e questi verbi sono elencati. E poi c'è anche un esercizio relativo a questi verbi e queste parole dal doppio significato, cioè doppio un significato ma anche il contrario. Oppure guardate un po', per esempio, occupato e disoccupato. Disoccupato non è il contrario di occupato. Benessere e malessere sono due parole che non hanno proprio il significato contrario, e qui è tutto spiegato. E che trovo anche molto, molto utile in questo secondo libro della trilogia è il capitolo dedicato a cinque parole particolari che sono ostiche per i non italiani, cioè addirittura, anzi, magari, mica e tanto, ma tanto non è il significato di molto. Faccio un esempio, perché ti disperi? Tanto ormai il guaio è fatto. Oppure è inutile lamentarsi, tanto le cose non cambiano. E anche qui c'è un esercizio relativo a queste parole. Poi che mi è piaciuto sono quelle piccole strizzate d'occhio che mi faccio. Per esempio, c'è il capitolo sulle frasi ipotetiche. Allora, l'esercizio sulle frasi ipotetiche: se Maria Sartori Pervani non avesse scritto questo libro, non dovremmo fare tutti questi esercizi. È un po' autoreferenziale questa cosa. Mi sono divertita a scriverlo. Allora, il secondo libro, Mai dire mai, vediamo come finisce. Allora, il marito torna a casa la sera, la compagna in camera e con il piede chiude la porta. Il terzo libro, tutto bene, quel che finisce bene, e qui Silvia ha 45 anni, il suo problema più grande adesso è il figlio maggiore, Luca, che ha 17 anni, in piena pubertà, e gliene fa passare di tutti i colori, possiamo dire. E comincia: la porta è chiusa, Ludovico, la porta della camera di Luca è chiusa. Come è chiusa? È chiusa a chiave. Silvia e suo marito erano appena rientrati da una cena a casa di amici. E Silvia aveva aperto, cioè aveva tentato di aprire la porta della camera di Luca, il suo figlio maggiore, per dirgli buonanotte. Ma vista l'impossibilità di entrare in camera, buonanotte rimase nei suoi pensieri. Dopo, finalmente, dopo provano tutte le chiavi di casa e finalmente l'ultima chiave che provavano, l'ottava, era la chiave buona anche per la camera, per la porta della camera di Luca. La camera però era vuota, irreparabilmente vuota. È vuota, constatò Silvia, laconica. Bonjour, monsieur de la Paris. Non ho la minimissima voglia di ironizzare adesso. E qui poi spiego la parola da parisiano. tra le note, poi spiego il significato e perché. Silvia dunque è madre di famiglia, è simpatica, però con una coscienza, perché allora nel terzo libro pensa ancora a quello che le è successo o che ha combinato quel famoso 31 dicembre di mai dire mai, e pensa dunque, ma il giorno dopo la coscienza si è fatta sentire, e come? La coscienza mi ha detto di tutti i colori. Io cercavo di controbattere, non dovevo darle ragione, non avrei dovuto iniziare a corrispondere, eccetera eccetera. Però poi con la figlia che non voleva dirle che cosa aveva combinato il giorno prima, allora la figlia che la mattina quando va a scuola deve vomitare, allora la mamma le dice cosa è successo, e la figlia dice, la figlia Elena dice, niente, non è vero, la mamma non si raccontano le frottole, a nessuno si possono raccontare, ma la mamma ancora meno. Mamma, ma come è possibile meno che a nessuno? Va bene, è un modo di dire, ma tu devi sempre dire la verità. Io e gli altri, tutti devono. Lo sguardo di Elena si fece serio e Silvia continuò. Allora, tutti dobbiamo dire la verità. Perciò dimmi, cosa hai mangiato ieri a casa di sera, di Sara? Secondo me ti sei ingozzata per bene. Patatine, tante, insomma, e poi cioccolata e torta, e poi c'è da tirarmi su. E quanto tirami su hai mangiato? Solo un po'. Mamma, dici sempre anche tu tutto relativo, ma no, quel dolce era assolutamente buono, non relativamente. E però poi Silvia, quando si rende conto di aver detto una bugia, dice, qui se la coscienza mi dice di no, io mi perdono e mi dico di sì. Insomma, è simpatica. Ecco, anche qui, nella seconda parte, ci sono molte domande sulla comprensione del testo, molte note esplicative e l'elenco dei cioè l'elenco alfabetico delle parole spiegate più la soluzione degli esercizi. Secondo me sono molto utili anche perché invogliano a leggere, come dicevo prima, invogliano a leggere perché è una storia avvincente, incuriosisce, viene voglia di conoscere il seguito della storia. Vediamo come finisce tutto bene quel che finisce bene. Allora, lei fa, Silvia fa un regalo al marito e lui dice che bella sorpresa, ti sei ricordata che oggi è il 12 marzo, però che sia il 12 marzo o qualsiasi altro giorno è veramente giunto il momento che Luca, che ne ha combinate come dicevo prima proprio di cotte e di crude, che Luca tutte le sue marachelle ai quali che combina metta decisamente la parola fine. E invece il libro, quando finisce il libro non finiscono le domande. E grazie a tutti e sono pronta per le domande. Prego. Forse per parlare anche senza questo. No, addirittura sempre. lo tengo da sola. Adesso non lo faccio più, però ho fatto per tanti anni, aiutato studenti a fare i patentini, lei sicuramente sa cosa sono i patentini. Non c'erano libri a disposizione. Allora, questi tre sarebbero stati, beh, se li portavano in alto Adige 20 anni fa, 30 anni fa, serviva qualcosa. Anche se devo aggiungere che è molto più difficile per gli italiani riuscire a fare il tedesco che non per i tedeschi, questo italiano, perché quello è più facile per i tedeschi fare sempre. A me allora non ho cercato libri, se avessi saputo fra vent'anni arrivano, non sono arrivati forse adesso, ma credo solo a quelli, perché l'italiano gli altri lo, tedeschi lo studiano a scuola, è per il patentino che è un qualcosa. Anche se va poi nei particolari della lingua italiana che non serve tanto al patentino, anche il patentino anche è più difficile, insomma, modi di dire così sono ben un po' fuori, no? Però resta sempre prima cosa che è molto, ma molto più difficile per gli italiani imparare il tedesco che non per i tedeschi imparare l'italiano. È vero, sì o no? Comunque grazie per averlo fatto. Posso anche per le concordanze che non è sempre domande ancora? Sì. Io qui ho letto. Sì, io qui ho letto che lei sul internet ho visto in scritto in tedesco che lei ha fatto un trattato sulla canzone italiana nell'insegnamento dell'italiano. Dunque, è una cosa che mi interessa molto perché io sto per aprire una scuola di italiano in Russia, si figuri, no? E ritengo che l'insegnamento sia ovviamente per le russe difficile, l'italiano è una lingua straniera, forse più facile del tedesco e forse più facile del russo, ma un modo per entrare nel contesto della lingua italiana sia la canzone, sia proprio un modo molto, molto piacevole e anche molto efficace. Primo, poi la seconda cosa che io vorrei fare, se riesco nella mia seconda carriera a fare, diciamo, il direttore di scuola, di utilizzare filmati, film, no? E poi anche la televisione, quindi questi sono tre mezzi, e poi anche i giornali, perché lei sa che anche all'estero si possono acquistare Corriere della Sera per italiani all'estero, eccetera. Quindi io farei questo, mi utilizzerei questi quattro strumenti didattici. Mi interessa soprattutto quello che lei ha scritto sulla canzone italiana. Allora, questo sarebbe un... Questo sarebbe un lunghissimo capitolo, anche molto molto interessante. Allora, possiamo con le canzoni imparare qualsiasi lingua, fermiamoci adesso qui all'italiano. Che cosa avevo fatto e che cosa faccio io personalmente? Avevo tenuto una lezione all'università di Delhi su come utilizzare la canzone, nella fattispecie era Il ragazzo della via Lupo. È una canzone, ma è ormai una canzone classica. A me io comincerei con Vendo casa dei Dick Dick. Per esempio. A me per esempio piacciono molto le canzoni che raccontano storie. Il ragazzo della via Lupo oppure la canzone di Marinella. Allora, una canzone può essere utilizzata proprio perché c'è il fatto della melodia. Pensiamo a una frase in inglese, yesterday, la prima che mi viene in mente, all my troubles seem so far away. Cioè, con la melodia le frasi ci restano più facilmente impresse e poi da lì si può poi insegnare la grammatica, le espressioni. E ci sono anche vari libri, ne è uscito proprio uno recentemente presso la casa di Sì. Ah, bene. In quanto contiene anche molte immagini, perché i libri per apprendere la lingua giorni oggi richiedono molte immagini. E questo al quale io adesso mi riferisco, quello che ho visto è fatto bene. E contiene molte canzoni di musica leggera, canzoni classiche, Volare, la conoscono dappertutto, anche in Russia. Perciò è un mezzo molto utile e piacevole per apprendere le lingue. Grazie. Non ho finito ancora. Questi libri sono stati anche, esistono in formato come dire, parlato? No. Non ha pensato di farlo? Sì, ma ci vogliono i mezzi, le persone, la capacità, l'investimento. Tra dire e fare anche con tanta buona volontà. Perché anche questo è un ottimo mezzo, quando uno, cioè, leggo un libro, lo ascolto, cioè tutto sta in una memorizzazione quasi inconscia, no? Sì. Questo è probabilmente il vantaggio del. Mi può dare l'indirizzo di quello, cioè il nome di quel libro, cioè il titolo di quel libro e l'autrice? So la casa editrice. Allora, il titolo qual è? Al momento. Allora, io qui dopo sul tavolo, qui sotto, ci sono i miei biglietti da visita, sì, lei mandano a me e io le rispondo il titolo del libro. È stato piacevolissimo. Quindi pensavo magari forse questi tre libri lei non ha pensato di metterli assieme, vendere cioè anziché tre singoli, mentre il primo, secondo e terzo fanno un volume, visto che pubblico, quando si vendono in giro No, è comunque meglio, pensando c'è comunque meglio che rimangano separati. Okay. Ecco, se vuole questa sera li può avere tutti. Quello che ha fatto in là, che ha pubblicato, sì, una, sì. Ce l'ha anche quello? Mm. Ero convinta di averlo portato per farlo vedere, ah, è qui. Bisogna sfilare. È rimasto in quella borsa. Il libro è questo, vedete, qui da Cicova, che contiene 250 modi di dire. E lo vede? No, lo trovo alla Tesia. Benissimo. Alla Tesia? Sì. Ma come la tabella? Sì. Ci sono i sorci verdi qua? No. Ci sono altri animali, i sorci verdi no. Per esempio non stare lì come un loco, e altre espressioni con gli animali, per i sorci verdi no. La stanza quando volete cercare. Ci può fare una promessa, ci invita un'altra volta quando il libro lo trova di canzoni. No, a dire la verità, in questo libro ce l'ho fatto. Io vengo ad ascoltare, è sicuro. Grazie. E deve pure cantare, delle canzoni, ecco, questa notte ci possiamo salutare e vi auguriamo una bella estate, un buon rientro alla signora Clevani Sartori e un arrivederci anche alle prossime iniziative o comunque qui in biblioteca al centro Trini. Grazie a tutti quanti.